ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato al britannico Michael Langton e agli americani Harvey Alter e Charlie Rice per la scoperta dell'HCV, il virus responsabile dell'epatite C. Commentiamo oggi il Nobel della medicina insieme al professor Luca Guidotti, virologo e patologo e vice direttore scientifico del San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Il virus, l'HCV, responsabile dell'epatite C, è un virus molto intelligente, uno dei più efficienti nel trasmettersi fra gli uomini, tanto che l'epatite C è tra le malattie infettive più diffuse nel pianeta. Professore. Assolutamente, questo è un bellissimo riconoscimento per una patologia molto molto importante del fegato che colpisce ancora oggi 70 milioni di persone, che ha poi preparato la strada per le cure. Sono molto felice per tutti e tre, specialmente per, se posso, Harvey e Charlie, che sono dei cari amici. Professore, oggi, grazie naturalmente alla ricerca, l'epatite C è una malattia curabile, il virus può essere eradicato. Esattamente, cioè Harvey Alter e Mike Houghton hanno scoperto nell'89 il virus attraverso tecniche, il primo virus scoperto attraverso tecniche di cosiddetta biologia molecolare, poi Charlie ha capito come il virus funzionava, quindi è un po' come imparare come funziona una macchina, un motore, per poi ripararlo. Con le loro scoperte poi di nuovo hanno preparato la strada poi alla creazione di antivirali che oggi riescono a curare definitivamente la malattia, quindi una pillola al giorno per un po' di settimane può curare potenzialmente una delle malattie che fino a poco tempo fa uccideva quasi 500.000 di persone al mondo ogni anno. Grazie professor Guidotti per essere stato con noi e le auguro una buonissima giornata. Grazie a lei. Per oggi è tutto, come sempre vi rimando alla pagina Facebook di Obiettivo Salute per i nostri incontri a tu per tu. Buona giornata da Nicoletta. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it.